Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Buonasera a tutti e buon sabato sera qui dalle frequenze di Radio Wombat e come ogni due sabati sera qui da Tonight Alive. Stasera serata jazz, non so se l'avrete riconosciuta nella sigla, ma forse una dei suoi brani più famosi e più conosciuti. Stiamo parlando della protagonista di questa sera di Tonight Alive, ovvero di Billie Holiday, della grandissima Billie Holiday, ma non ci sono aggettivi per descriverla, è veramente un mostro sacro che stasera andremo a sviscerare insieme. Spero che abbiate un tot di tempo da dedicare a Billie Holiday, perché la puntata si preannuncia bella ricca e con un sacco di storie, perché la sua vita è stata veramente veramente un film. Infatti ne hanno tirati fuori anche diversi di film dalla vita di Billie Holiday, perché è stata veramente molto triste, sì, ma anche veramente incredibile la storia e la vita di questa donna, che ha lasciato un segno indelebile, direi, nella storia della musica jazz e anche della musica tutta, visto le sue grandissime doti canore che hanno influenzato poi legioni intere di cantanti venute dopo di lei. E questa era la versione di Summertime del 1936, registrata insieme all'orchestra di Artie Shaw, con ovviamente Artie Shaw al clarinetto, Bunny Berrigan alla tromba, Dick McDonough alla chitarra, Joe Buskin al piano, e Pete Patterson al basso e Cozy Cole alla batteria. E questa appunto era la versione di Summertime del 1936 insieme appunto all'orchestra di Artie Shaw. Ma prima di buttarci, di tuffarci a pieno nella vita e nelle vicende di Billie Holiday, voglio ricordare tutti i nostri indirizzi e tutti i nostri canali per mettervi in contatto con noi, oltre ovviamente al nostro sito wombat.noblogs.org e alla nostra frequenza in modulazione d'ampiezza per la zona di Firenze e limitrofi, che ovviamente è, ve la ricordo, 1359 sulla M. Voglio ricordare anche la nostra mail, che è postawombat@insiberia.net, e i nostri canali social, che sono come sempre Twitter, su twitter.com/radiowombatfi, e su Facebook facebook.com/radio-wombat-firenze. E torniamo appunto a noi a raccontare la storia di quella che è nata Eleonora Fagan il 7 aprile del 1915, perché appunto questo era il vero nome di Billie, di quella che poi si farà chiamare Billie Holiday. E appunto era nata il 7 aprile del 1915 a Filadelfia, ed era la figlia di Sarah Julia Sadie Fagan e del musicista jazz, più che altro chitarrista e banjoista, Clarence Holiday, che era una giovanissima coppia non sposata. Sembra che quando la Fagan rimase incinta era roba tipo tredicenne, e lui, Clarence Holiday, era di poco più grande, intorno ai 16 anni. E Clarence Holiday non vivrà mai insieme alla famiglia, perché lascerà molto presto la madre di Billie Holiday per seguire la sua carriera da jazzista in giro con le jazz band. E oltretutto la famiglia della madre di Billie Holiday, visto che era una coppia non sposata, quasi subito rinnegherà la madre, e che verrà costretta a lasciare la casa materna per andarsi a rifugiare in casa della sorellastra, Eva Miller, che nel frattempo si era trasferita a Baltimora. E ovviamente la madre di Billie Holiday, per vedere di sopravvivere in quella situazione, farà diversi lavori in questa prima parte. Lavorerà come inserviente sui treni e quindi vi potete immaginare che la figlia, appunto, quella ancora che non è Billie Holiday, per i primi 10 anni della sua vita verrà quasi completamente lasciata nelle mani della sorellastra, che poi quasi istantaneamente non se ne occupò neanche lei, ma come si dice, a scaricabarile fece guardare, diciamo tra virgolette, la piccola Eleonora alla sua matrigna Martha Miller, che ovviamente la guarderà fino a un certo punto. E Sara Julia Fagan, la madre di Billie Holiday, si risposerà, ma anche questo nuovo matrimonio naufragherà nel giro di un paio di anni e ritornerà a lavorare ben presto sui treni, riaffidando Eleonora a Martha Miller. E saltava molto spesso la scuola, la piccola Billy, tanto da essere sospesa in tenerissima età e affidata al riformatorio cattolico House of the Good Shepherd, dove resterà inizialmente per 9 mesi. E riuscirà nel 25, quando sua madre riuscirà a aprire un piccolo ristorante che si chiamava East Side Grill, dove tra l'altro la bambina Eleonora andrà da subito a lavorare. Infatti abbandonerà la scuola già all'età di 11 anni. E quando la madre di Billie Holiday ritornerà a casa il 24 dicembre del 1926, troverà il suo vicino Wilbur Rich, che sta tentando di stuprare la piccola Billie. E fortunatamente arrivano in tempo e ce la fanno a togliergliela dalle mani e a far arrestare Wilbur Rich, e in questo caso, essendo stata oggetto di stupro e testimone oculare del suo stesso tentativo di stupro, la piccola Billy verrà rispedita un'altra volta nella House of the Good Shepherd per vedere di almeno dargli un po' di protezione durante i mesi del processo al vicino. Quindi una vita veramente devastante nella sua piccola età. E uscirà questa volta all'età di 12 anni e si metterà subito a lavorare come sguattera in un vicino bordello, strusciando i piani di marmo e a pulire le cucine e le stanze del bordello. Ma anche è proprio in questo periodo che lei racconta nella sua autobiografia che ascolterà per la prima volta le prime registrazioni di Louis Armstrong e della grande Bessie Smith. Nei primi mesi del 1929, Billie Holiday ritornerà insieme a riraggiungerà la madre, che nel frattempo si era trasferita in una casa ad Harlem, tranne poi scoprire che la proprietaria di casa non era nient'altro che la tenutaria di un bordello, lavoro che la madre era andata a fare per vedere di sopravvivere. E neanche all'età di 14 anni Billie Holiday farà lo stesso lavoro della madre, al costo di 5 dollari al cliente. E il 2 maggio del 1929 il bordello verrà chiuso da una retata della polizia ed entrambi, sia la madre che Billie Holiday, verranno arrestate e spedite in riformatorio, la madre per 3 mesi e Billie Holiday non si sa come mai per cinque mesi. E rimessa in libertà per evitare di ritornare a fare il mestiere più antico del mondo, cercò lavoro come ballerina in un locale notturno. No, sicuramente non sapeva ballare, ma fu assunta immediatamente quando la sentirono cantare, e a 15 anni iniziò la sua carriera di cantante nei club di Harlem. Prese il suo pseudonimo artistico unendo i nomi di Billie Dove, che era un'attrice di quel periodo che lei ammirava particolarmente, e il cognome ovviamente lo prese da suo padre. E fu proprio in questo periodo iniziale che iniziò a cantare regolarmente insieme, facendo team appunto con un suo vicino che era un tenor sassofonista che si chiamava Kenneth Holland, e proprio con lui negli anni della Grande Depressione, dal 29 al 31, formeranno appunto questa prima formazione che inizierà a girare nei più famosi club jazz di Harlem, come il Grey Dawn, come il Potts & Jerry e come anche l'Hell's Club a Brooklyn. E Benny Goodman ricorda di aver sentito per la prima volta cantare Billie Holiday nel 1931 al Bright Spot, e la sua reputazione cresceva sempre di più via via che la pratica andava avanti e le sue doti canore miglioravano. La sua fama iniziava a spandersi per i club di Harlem, ed è proprio in questo periodo che riesce a rimettersi in contatto con il padre, che nel frattempo, in quel periodo, stava suonando insieme all'orchestra di Fletcher Anderson. E nel tardo 1932, all'età di 17 anni, Billie Holiday sostituì la cantante Monette Moore al Covance Club della 132esima strada, e lì fu notata dal produttore John Hammond, che ne rimase completamente folgorato dalla voce della giovanissima Billie, e quasi subito capì che quella era una star in erba, e decise subito di darsi da fare per far crescere una nuova star, e appunto iniziò a preparare le sue prime registrazioni e il suo debutto all'età di 18 anni nel novembre del 1933, insieme a niente po' di meno che il grande Benny Goodman. E insieme a lui per questo primo singolo incise le sue prime due canzoni, Your Mother's Son-in-Law e Riffing the Scotch. Entrambe ha avuto comunque un buonissimi dati di vendita. Infatti, se la prima, Son-in-Law, vendette solo 300 copie, per la seconda, Riffing the Scotch, pubblicata l'11 novembre, vendette più o meno intorno alle 5.000 copie, che per un artista praticamente al debutto in quegli anni Ricordiamo che la Grande Depressione, quindi cioè, i dischi non li comprava praticamente più nessuno e 5.000 copie erano davvero tanta roba per un artista debuttante. E Hammond ricorda appunto di essere rimasto completamente folgorato dallo stile vocale di Billie Holiday. E appunto ricorda che quando l'ha sentita cantare le prime volte cambiò radicalmente la sua idea e i suoi gusti per quanto riguardasse la musica. Infatti era la prima cantante che in quel momento cantava come se fosse stata uno strumentista. Infatti era la prima che usava la voce proprio come se fosse uno strumento del jazz, improvvisando proprio con la sua voce. E dopo questo lungo, doveroso prologo, andiamoci ad ascoltare il secondo brano che ho scelto per voi, il primo se non contiamo la sigla, è proprio Riff in the Scotch, suonata, cantata insieme all'orchestra di Benny Goodman. Ovviamente Benny Goodman era al clarinetto con Charlie Teagarden e Shirley Clay alle trombe, Jack Teagarden al trombone, Art Carl al sax tenore, Joe Sullivan al piano, Dick McDonough alla chitarra, Artie Bernstein al basso e niente po' di meno che Gene Krupa alla batteria. E questa è Billie Holiday con Benny Goodman in Riffin' the Scotch, Tonight Alive, Radio Wombat. Questa era la prima registrazione, anzi la seconda, perché la prima era Your Mother's Son-in-Law E questa era appunto la seconda registrazione fatta da Billie Holiday, anche se si sente che ha detto pochissime frasi in questa canzone, più che altro la star era l'orchestra di Benny Goodman, però appunto questo singolo ha lanciato la Holiday nel mondo del jazz. E era appunto una registrazione del 18 dicembre del 1933. Un paio di anni più tardi, anzi un annetto più tardi, qualcosa di più, nel 1935, John Hammond fece firmare Billie Holiday per la Brunswick Records, che la mise sotto contratto per inserirla nell'orchestra di Teddy Wilson, che in quel momento stava proprio creando questo nuovo stile swing che tanto andava in voga, che stava appunto affermandosi, direi, in quel periodo. E non c'era niente di scritto e gli era stato praticamente dato carta bianca da Teddy Wilson per improvvisare in maniera totale sul suo materiale, e è stato proprio questo che probabilmente ha fatto esplodere Billie Holiday, perché il modo di improvvisare con la voce, con la sua voce, con il canto, su un classico suono d'orchestra swing di metà anni 30, è stata proprio la prima cosa assolutamente rivoluzionaria che ha fatto Billie Holiday nel mondo della musica. Fino ad allora nessuna cantante che avesse registrato un brano su vinile / ceralacca improvvisava come faceva lei, e appunto questa era la prima cosa assolutamente rivoluzionaria che fece Billie Holiday nella sua carriera. E la prima collaborazione con appunto l'orchestra di Teddy Wilson era stata What a Little Moonlight Can Do e anche Miss Brown to You. Anche se alla Brunswick non piacquero molto quelle registrazioni, perché il modo di cantare della Holiday era assolutamente diverso da come cantavano tutte le altre cantanti jazz del periodo, e avrebbero voluto una cosa molto più standard nelle loro intenzioni. Ma What a Little Moonlight Can Do sarà comunque un singolo di successo, e da allora, nonostante le iniziali titubanze da parte della Brunswick, dopo questo primo successo l'etichetta inizierà a considerare la Holiday proprio come un artista in tutti gli effetti da inserire e promuovere all'interno della propria etichetta. E infatti in queste prime registrazioni di metà anni 30 su Brunswick Records, poi verrà, come vedremo, verrà affiancata da veramente dai migliori, direi, musicisti reclutabili sulla piazza. Giusto per farvi un esempio, nel prossimo brano che ci ascolteremo, Miss Brown to You del 1935, oltre a esserci il Teddy Wilson, il band leader, che era il pianista della band, Pensato un po', c'era al clarinetto Benny Goodman stesso, c'era Roy Eldridge alla tromba e Ben Webster al sax tenore. Già solo questi due basterebbero. John Trueheart alla chitarra, John Kirby al basso e Cozy Cole alla batteria. Ma andiamoci a sentire questo brano del 35 di Billie Holiday, Miss Brown to You. Mamma mia, che stile! Questa era Miss Brown to You del 1935 e sempre su Brunswick Records e con l'orchestra ovviamente di Tony Wilson, sempre con la stessa line-up nella registrazione. Volevo farvi sentire un altro brano del 1935 che è un brano che è divenuto famoso perché era contenuto all'interno di un film poi diventato abbastanza famoso, Stars Over Broadway. Appunto questo film, diciamo, un film sì, sicuramente a sfondo musicale, molto romantico, con Pat O'Brien e Jane Froman, diretto da William Knightley, e insomma ricevette un discreto successo e la canzone che Billie Holiday cantò per questo film è You Let Me Down, sempre di questo 1935, Brunswick Records, Tonight Alive. You told me that I was like an angel, told me I would fit you wear a crown, so that you could get a thrill. You put me on a pedestal and then you let me down, let me down. You told me that I'd be wearing diamonds, I would have the smartest car in town, made me think that I'm the top, and then you let the ladder drop. You know you let me down, let me down. Anche questa You Let Me Down. E un'altra frequentazione di quegli anni, che poi resterà una frequentazione per il re, per tutto il resto della sua vita, una delle poche persone che gli sono rimaste vicino nel corso di tutta la sua esistenza. Proprio in quegli anni, l'anno prima di quando stavamo parlando, infatti nel 1934 Billie Holiday conosce il tenor sassofonista Lester Young, niente poco di meno che Lester Young, e i due diventano fin da subito grandissimi amici, confidenti, qualcuno dice anche qualche cosa di più, ma insomma sarà una delle poche frequentazioni che dureranno tutta la vita. E infatti i due si scambieranno, diciamo, il favore di dare il soprannome uno all'altro. Infatti sarà proprio Lester Young che soprannominerà Billie Holiday Lady Day, il soprannome che gli resterà per tutto il resto della sua vita, e appunto Billie Holiday darà il soprannome a Lester Young, ovvero The President, che anche a lui resterà per tutto il resto della vita. Lester Young ci vorrebbe per presentarlo ci vorrebbe un'altra trasmissione intera, magari ve la farò poi, però insomma veramente uno dei più grandi sassofonisti della storia del jazz, citato come ispirazione da John Coltrane, e penso che possa bastare anche solo questo, insomma. E ritornando alla nostra Billie Holiday, siamo ormai nel tardo 1937 e il successo stava cominciando a essere roba importante, il suo nome stava girando molto negli ambienti del jazz, infatti in quel tardo 37 verrà la chiamata di un'altra autentica leggenda dell'era dello swing e del jazz in generale, ovvero quel grande che è stato Count Basie, la chiamerà a cantare per la sua orchestra, e anche se è una delle orchestre più famose e influenti e rinomate della storia del jazz, comunque le condizioni di lavoro erano veramente veramente misere anche per l'orchestra di Count Basie. La maggior parte delle volte suonavano una sola notte in club sparsi in giro per una parte degli Stati Uniti, muovendosi da città in città giorno dopo giorno, sempre alloggiando in luoghi che insomma si farebbe prima a chiamare baracche che non appartamenti, ostelli o quello che volete. Count Basie racconterà poi che non sarà mai stato facile collaborare appunto e avere Billie Holiday come cantante, perché non era lei, cioè sì, era sicuramente lei che adattava il suo stile vocale alla band con cui stava suonando, ma Basie ricorderà che cioè erano più che altro loro che dovevano stare dietro all'improvvisazione di Billie Holiday mentre provavano, perché gli potevi dire, come dice Basie, gli potevi dire qualunque cosa, lei un po' si adattava, ma era più che altro la band che poi doveva riuscire a sostenere questo suo stile così particolare e rivoluzionario a quel tempo, perché solo lei cantava in quel ricordo, solo lei cantava in quella maniera in quel periodo lì. Infatti poi ha fatto scuola, non si sa in quanti l'hanno imitata. E giusto per ricordare le registrazioni che Count Basie fece di quelle memorabili che Count Basie fece insieme a Billie Holiday, basti ricordare I Must Have That Man, Traveling All Alone, I Can Get Started, e anche Summertime stessa, che ci siamo ascoltati in apertura. Soltanto la sigla era nella versione della band di Artie Shaw, e poi invece rincise anche insieme alla band di Count Basie. E entrando appunto a essere la voce della band di Count Basie, in questo modo Billie Holiday entrerà direttamente in competizione con un'altra autentica leggenda del jazz come Ella Fitzgerald, un'altra grandissima cantante del jazz, e incredibilmente le due, dopo un po' di tempo dopo un po' di tempo arrivarono a diventare addirittura amiche, entrarono in competizione perché la Fitzgerald era a quel tempo la cantante della band di Chick Webb, un'altra grandissima orchestra swing del periodo, che erano gli storici rivali della band di Count Basie, appunto. E il 16 gennaio del 1938, nello stesso giorno in cui Benny Goodman registrerà il suo leggendario concerto al Carnegie Hall, leggendario perché è stato il primo jazzista a entrare a suonare nel tempio della musica colta come la Carnegie Hall. Insomma, in quello stesso giorno che Benny Goodman suonava alla Carnegie Hall, le due band di Count Basie e Chick Webb si sfidarono in battaglia alla Savoy Ballroom. Chick Webb e la Fitzgerald furono dichiarati vincitori di quella battaglia dal Metronome Magazine, un magazine famosissimo di jazz, e invece l'altro famosissimo magazine di jazz, il Downbeat, dichiarò vincitori Count Basie con Billie Holiday, anche se poi alla fine il giudizio del pubblico fu inclemente con appunto Billie Holiday, perché dichiarò la Fitzgerald vincente con uno scarto di voti di roba tipo 3-1, quindi il giudizio del pubblico, già un iniziale talent show lì alla fine, in quell'inizio del 1938, insomma, la band di Count Basie e di Billie Holiday persero quella battaglia. Alcune di queste canzoni che la Holiday ha fatto con Count Basie sono state registrate, ma solamente dal vivo, perché Billie Holiday non è mai riuscita ad andare a registrare in studio insieme alla band di Count Basie, anche se moltissimi di quei musicisti che suonarono con lei nella band di Count Basie poi se li porterà dietro quando andrà a registrare le session insieme all'altra orchestra, quella di Teddy Wilson. E quindi adesso ascoltiamoci una di queste registrazioni sopravvissute al tempo insieme alla band di Count Basie. Questa è una registrazione del 30 giugno del 1937, e ovviamente oltre a Billie Holiday alla voce e Count Basie al piano abbiamo Buck Clayton, Ed Lewis, Bobby Moore alle trombe, George Hunt e Dan Minor ai tromboni, Earl Warren al sax alto, Jack Washington all'altro sax alto e al baritono, niente proprio di meno che Lester Young al tenore e al clarinetto, Herschel Evans all'altro sax tenore, Freddie Green alla chitarra, Walter Page al basso e il mitico Philly Joe Jones alla batteria. E questa è appunto la registrazione insieme all'orchestra di Count Basie, e questa è Swing Brother Swing, Tonight Alive, Radio Wombat. Now we're going to ask Count Basie and all the cats to swing on down to the tune called Swing Brother Swing. Rhythm captivates me, hot rhythm stimulates me, can't help but let me go to town. Stop this diddle daddle and this foolish prattle. Come on, kill me, Joe. Swing it, brother, swing. Deep rhythm captivates me. Hot rhythm stimulates me. Can't help but swing it, boy. Swing it, brother, swing. Questo appunto era Swing Brothers Swing insieme all'orchestra di Count Basie. E già nel febbraio del 1938 Billie Holiday verrà licenziata dall'orchestra di Count Basie, sicuramente per svariati motivi. C'era addirittura Jimmy Rushing, era il cantante maschio della band di Basie, diceva che lei non era professionale. Molti musicisti della band la definivano capricciosa e inaffidabile, e invece lei si giustificava dicendo appunto che la paga era da fame. Lavorava in delle condizioni veramente, veramente incredibili, e che oltretutto, cioè, si rifiutava anche di cantare certi brani proposti dal pubblico, cosa che in una band super organizzata e molto, diciamo, tra virgolette, straight edge come era quella di Count Basie, non era sicuramente accettabile. Poi anche appunto una persona con un canto così particolare, con una tecnica di canto particolare come Billie Holiday, in un'orchestra super organizzata e molto, diciamo, in scatolata come era quella di Count Basie, che funzionava, cioè in scatolata nel senso che funzionava proprio come il meccanismo di un orologio, e questa voce così particolare appunto creava abbastanza dei problemi a Count Basie, quindi insomma era stato abbastanza naturale che a un certo punto le strade dei due si dividessero. Però appunto, una volta abbandonata la band di Count Basie, Billie Holiday non fece fatica a trovare un nuovo ingaggio con un'altra nuova grande big band, visto ormai la fama abbastanza grande raggiunta dalla sua voce nell'ambito del giro jazz. Appunto, riuscì a trovare un nuovo ingaggio con la band del clarinettista Artie Shaw, e appunto questo nuovo ingaggio hanno reso di lei la prima donna di colore a lavorare insieme ad un'orchestra bianca come era quella di Artie Shaw, una cosa assolutamente inusuale al tempo. Cioè, di solito le band bianche avevano cantanti bianchi, le band nere avevano cantanti neri, era molto segregata la situazione fino ad allora. Ma più che altro è stata anche la prima cantante nera afroamericana presa, reclutata a tempo pieno per il primo, per un tour negli stati del sud segregazionisti al seguito di un band leader bianco. E quindi vi potete un attimo immaginare la situazione, perché eravamo alla fine degli anni 30 e quel tour era stato costellato da una tensione razziale incredibile, anche se Artie Shaw aveva tutta la sua band avevano difeso a spada tratta appunto Billie Holiday nelle varie situazioni, ma succedevano veramente delle cose che solo vi lascio immaginare. Immaginatevi, cioè, appunto questa situazione: la prima cantante nera a suonare insieme ai bianchi, che se ne va a fare un tour magari in Alabama, in Tennessee e in Arkansas, e vi lascio solo anche solo immaginare quello che sia potuto succedere alla povera Billy. Addirittura, cioè, in una sera gli fu negato di mettersi a sedere sulla panca insieme agli altri componenti della band, perché appunto lei era l'unica nera in mezzo a tutti i bianchi. E mentre era in giro per questo tour negli stati del sud, era molto spesso molestata dal pubblico. Addirittura a Louisville, dopo l'ennesimo epiteto razzista rivoltogli dal pubblico nella richiesta di una canzone, Billie Holiday perse il suo proverbiale il suo temperamento, che doveva tenere in certi stati del sud, e perse completamente la testa, e ovviamente rispose al pubblico, e dovettero portarla via difeso dal palco, perché ovviamente il rischio che tutto finisse in un linciaggio era veramente altissimo. E nel marzo del quel 1938 l'orchestra di Artie Shaw insieme a Billie Holiday sono stati trasmessi dalla potentissima radio di New York, la WABC, e questo non fece altro che aumentare ancora di più il loro successo, e addirittura riuscirono a ottenere la trasmissione di un'altra loro esibizione ad aprile, che aumentò a dismisura appunto la loro esposizione in giro per gli Stati Uniti. E dopo queste trasmissioni, addirittura anche un giornale di New York fece un'ottima recensione di questi due concerti, dicendo appunto prima il New York Amsterdam News e poi addirittura il Metronome scrissero che l'aggiunta della Holiday nella band di Artie Shaw aveva messo questa proprio ai massimi livelli delle migliori orchestre del periodo. E Non esiste nessuna registrazione live dell'esibizione che la Holiday fece con la band di Artie Shaw, perché durante quel periodo la Billie Holiday era sotto contratto con un'altra label, ma molto probabilmente non furono registrate proprio per motivi razziali, perché avrebbe creato nell'America del periodo, avrebbe creato un sacco di problemi questa cosa nella bigotta America. E la Holiday riuscì a registrare solo un pezzo in studio insieme alla band di Artie Shaw, che è Any Old Time. Comunque questo non impedì ad Artie Shaw di suonare il clarinetto in quattro famosissime canzoni della Holiday, che registrò nel luglio del 36, ovvero Did I Remember, No Regrets, In Summertime, che abbiamo sentito in sigla, e in Billy's Blues, uno dei pochi blues ovviamente rispetto al gigantesco repertorio della cantante della Holiday. E quindi, appunto, io vi avrei messo a questo punto la registrazione di Billy's Blues su Vocalition, che è appunto Billy Holiday insieme all'orchestra di Artie Shaw, che come sempre hanno Artie Shaw al clarinetto, Bunny Beringham alla tromba, Joe Buskin al piano, Dick McDonough alla chitarra, Pete Peterson al basso e Cozy Cole alla batteria. E questa è Billy's Blues 1936, Billy Holiday. Questa era Billy Holiday insieme all'orchestra di Artie Shaw. E anche se la Holiday non riusciva a cantare quanto avrebbe voluto nella band di Artie Shaw, perché la maggior parte del repertorio della band era strumentale, con poco spazio comunque al cantato, comunque insomma, il Artie Shaw stava ricevendo un sacco di pressioni da parte della Bluebird Records, era la sua etichetta, per cambiare cantante e per assumere una cantante bianca, Nita Bradley, con cui insomma la Holiday non avrebbe diviso per molto il palco insieme. E nel maggio del 1938 ci fu un'altra battaglia tra band, in questo caso tra quella di Artie Shaw e quelle di Tommy Dorsey e di Red Norvo. E in queste due battaglie del maggio del 38 il pubblico votò a suffragio universale per Billie Holiday, che vinse proprio a mani basse. E anche se Artie Shaw ammirava profondamente il modo di cantare della Holiday nella sua band, sapeva che non sarebbe potuta durare più di tanto. E se alla fine degli anni 30 Billie Holiday era già andata in tour con delle grandissime orchestre come quella di Count Basie e di Artie Shaw, nonostante avesse registrato degli show alla radio divenuti famosissimi e avesse registrato delle grandi hit anche insieme a Teddy Wilson, nonostante tutti questi successi, nonostante What a Little Moonlight Can Do e Easy Living fossero ormai diventati degli standard imitati dai cantanti in giro per tutta l'America, eppure, nonostante tutto questo, nel novembre del 1938 a Billie Holiday fu chiesto al Lincoln Hotel di non usare il normale ascensore per i clienti, ma il montacarichi di servizio, oppure non gli era permesso di andare a stare insieme al resto della sua band nel salotto o nella cucina, ma veniva comunque fatta passare dagli ingressi di servizio oppure stare nascosta nelle cucine invece di cenare e pranzare con tutto il resto della sua band. E vi rendete ben conto che questa, appunto, dopo aver raggiunto un così grande stato di successo, fu proprio la goccia che fece traboccare il vaso e Billie Holiday lasciò la band di Artie Shaw. E sentiamoci adesso un altro suo grandissimo classico, I Can't Get Started, un altro pezzo che è diventato uno standard, questa volta registrato nel settembre del 1938, sempre su Vocalion Records, no Vocalition come avevo detto prima. E in questo caso, in questa registrazione, Billie Holiday è accompagnata da Buck Clayton alla tromba, da Lester Young al sax tenore, da Margaret Queenie Johnson al piano, da Freddie Green alla chitarra, da Walter Page al sax baritono e da Philly Joe Jones alla batteria. E questa è I Can't Get Started, Billie Holiday, Tonight Alive, Radio Wombat. I've been around the world in a plane, seven revolutions in Spain, the North Pole I have charted, but can't get started with you. Questa era I Can't Get Started, ovviamente di Billie Holiday insieme a Lester Young. E alla fine degli anni 30 Billie Holiday stava registrando per la Columbia quando gli venne fatto conoscere Strange Fruit, una canzone basata su una poesia scritta su un linciaggio da Abel Meeropol, che era un insegnante di scuola ebreo del Bronx, e Meeropol usò lo pseudonimo Lewis Allan per pubblicare questa poesia, e poi fu musicata dall'unione dei professori, e probabilmente gliela fece ascoltare la prima volta Barney Josephson, era il proprietario del locale Caffè Society, come si dice in inglese, un integrated nightclub del Greenwich Village, ovvero che vuol dire, era uno di quei pochi posti dove bianchi e neri si potevano sedere allo stesso tavolo. E Billie Holiday cantò per la prima volta Strange Fruit, appunto, al Caffè Society nel 1939, con molta, direi con molta trepidazione, assolutamente impaurita dalle rappresaglie che sarebbero potute succedere da una canzone del genere. Poi lei nella sua autobiografia ricorderà tutta questa tensione, tutta questa paura riguardo a questa canzone, perché diceva che quella canzone gli ricordava tantissimo la morte di suo padre. Infatti Clarence Holiday era morto tempo prima, e perché gli era stato rifiutato, come purtroppo succedeva spesso in quel periodo, gli era stato rifiutato le cure negli ospedali perché nero, e appunto poi fatto morire del suo male, appunto. E la prima volta che cantò Strange Fruit al Caffè Society, appunto aspettò che il pubblico fosse in assoluto silenzio prima di iniziare a cantare la canzone. E durante la lunga introduzione del brano le luci erano tutte completamente spente e non si muoveva una foglia, non c'era nessuno che si stesse muovendo in quel momento. Nell'attimo in cui la Holiday iniziò a cantare, solamente un piccolo faretto illuminava nel buio la sua faccia. La Holiday iniziò a cantare e il pubblico rimase pietrificato davanti alle proprie colpe, che diventarono manifeste nelle sue parole. E nella nota finale, con tutte le luci spente, sulla nota finale tutte le luci si spensero, e quando si riaccesero Billie Holiday se n'era andata. E quando il produttore alla Columbia della Holiday credette che il materiale, appunto, che quella canzone fosse una canzone, diciamo, troppo sensibile, Milt Gabler, appunto l'art director della Columbia, accettò di farla registrare, sì, assolutamente, però con la sussidiaria Commodore Records nell'aprile del 39. Strange Fruit resterà nel repertorio di Billie Holiday per oltre 20 anni. E l'ha anche riregistrata per la Verve poi successivamente. Però quella registrazione, che poi finirà sulla Commodore, non avrà mai nessun passaggio in radio, proprio per l'argomento trattato. E nonostante tutto, la canzone vendette benissimo, e vendette un sacco di copie, e oltretutto Gabler, appunto l'art director della Commodore Records e della Columbia, fecero uscire come singolo il lato B di Strange Fruit, era Fine and Mellow, che divenne addirittura un successo da jukebox. E adesso andiamoci a sentire, appunto, questo brano assolutamente storico e leggendario per la storia della musica, la storia del jazz, ma direi per la storia tutta in generale. Infatti gli alberi del sud hanno un frutto strano, sangue sulle foglie e nelle sue radici, un corpo nero penzola nella brezza del sud, un frutto strano che pende dai pioppi. Strange Fruit, Billie Holiday, 1939. Thank you. blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar tree. Dopo la registrazione della sua Strange Fruit, la popolarità di Billie Holiday aumentò veramente a dismisura e addirittura ricevette una menzione dal Time Magazine, pensate un po'. E come disse nella sua autobiografia, ho aperto il Caffè Society come una sconosciuta e dopo 2 anni l'ho lasciato come una star. Però sì, il prestigio e la pubblicità erano ok, però con queste io non è che ci pagavo l'affitto. Infatti, giustamente, chiese subito un aumento al suo manager Joe Glazer. E nel frattempo ritorna Sadie Fagan, ovvero la madre di Billie Holiday. E Sadie Fagan nel frattempo aveva aperto un altro ristorante, stavolta sfruttando la popolarità della figlia, lo chiamò Mom Holidays. E era normale, cioè prendeva i soldi, pure lei prendeva i soldi dalla figlia per continuare a mandare avanti il suo ristorante, scusate. E comunque, dice la Holiday, non gli interessava perché comunque la faceva stare occupata e felice e lontana dal preoccuparsi di stargli sempre addosso. Sua madre prese in prestito enormi quantità di soldi da Billie per riuscire a mandare avanti il suo ristorante. Scusate, ma comunque in quel periodo iniziarono a arrivare anche i periodi estremamente difficili per Billie, se mai ne abbia mai avuti di facili. Infatti proprio in quel periodo la sua dipendenza dall'eroina era diventata veramente importante, oltre al suo alcolismo. E quindi non si sa più chi prestava i soldi a chi a un certo punto. E quando racconta nella sua biografia, una sera aveva un disperato bisogno di soldi e sapeva che sua madre ce n'aveva sicuramente nel suo ristorante, andò lei stavolta a chiedere dei soldi in prestito alla madre, che però ovviamente rifiutò, e da lì dicendogli che non gli avrebbe mai dato neanche un centesimo, le due discussero animatamente, diciamo tra virgolette, e a un certo punto Billie Holiday gli urlò in bel vita God bless the child that's got his own. Dio benedica i figli che sanno il fatto loro, e se ne andò via. Poi, insieme ad Arthur Herzog Jr., un pianista, scrisse la canzone basata su quelle parole, e da lì nacque God Bless the Child, che è diventata poi una delle canzoni in assoluto più famose di Billie Holiday. Basti pensare che poi, quando la registrò, arrivò addirittura in quel 1941 alla posizione numero 25 della classifica generalista addirittura, e Billboard la mise addirittura al terzo posto come una delle canzoni dell'anno, un brano che vendette veramente milioni di copie. E adesso appunto andiamoci ad ascoltare questa God Bless the Child, registrata il 9 maggio del 1941, e in questo caso nella band che esegue questa canzone ci sono Roy Eldridge e Ernie Powell alle trombe, Jimmy Powell e Lester Boone ai sax alti, Eddie Haywood al piano, Paul Chapman alla chitarra, Graham Moncourt secondo al basso e Herbert Cowans alla batteria. God Bless the Child, Billie Holiday, Tonight Alive. Them that's got shall get, them that's not shall lose. So the Bible said, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Yes, the strong gets more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grave. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Money, you got lots of friends crowding round the door. But don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. nel settembre del 1943 il Life scrisse su Billie Holiday che lei aveva lo stile più caratteristico, lo stile vocale più caratteristico e imitato di tutti gli altri cantanti già allora nel 1943. E Milt Gabler, oltre a essere il proprietario della Commodore Records e della Columbia, in quegli anni divenne anche Art and Rowdy della Decca Records e fece firmare Billie Holiday per la Decca nell'agosto del 44. Il suo primo album su Decca è stato Lover Man, addirittura numero 16 nella classifica generalista e numero 5 nella classifica R&B, uno dei suoi maggiori successi di tutti i tempi. E il successo e la distribuzione delle sue canzoni fecero entrare stabilmente Billie Holiday nella comunità pop, anche perché appunto riuscì anche a penetrare non solo le classifiche generaliste per la musica da neri, ma anche le classifiche insomma più generali. E iniziò anche a fare dei concerti in solo, da solista, che era una cosa assolutamente rara per le cantanti jazz alla fine degli anni 40. E sempre in quel periodo ci racconta Billie Holiday che chiese appunto a Gabler di aggiungere gli archi nelle sue registrazioni, proprio come aveva sentito nelle ultime pubblicazioni di Ella Fitzgerald e di Frank Sinatra, e dice che letteralmente si mise in ginocchio nello studio di Milt Gabler per avere questi arrangiamenti di archi, e insomma ottenne quello che voleva. E un mese dopo, in novembre, Billie Holiday tornò alla Decca per registrare That Old Devil Called Love, Big Stuff e Don't Explain. E scrisse Don't Explain dopo che aveva beccato il suo marito di allora, Jimmy Monroe, con Del Rossetto sul colletto, proprio un grande classico. E nel settembre del 1946 Billie Holiday andò anche a recitare in un film chiamato New Orleans, dove le star del film erano Louis Armstrong e Woody Herman, due grandissimi, ovviamente non ve lo sto neanche a dire, due grandissimi dell'era swing. Soltanto questo film era completamente, proprio mi viene da dire, impiegato di razzismo e del maccartismo imperante nel periodo. Infatti il produttore Jules Levy e lo scrittore Herbert Biberman erano, diciamo, tra virgolette, molto sotto pressione per far apparire Billie Holiday e Louis Armstrong e per dare l'impressione generale che appunto il popolo afroamericano non c'entrasse niente con l'invenzione della musica jazz. Pensate a che livelli eravamo arrivati, cioè stavano modificando la storia per far credere che appunto il jazz l'avesse inventato Paul Whiteman invece che i musicisti di New Orleans con Louis Armstrong e tutto il resto della banda, anche solo per farvi capire a che livelli eravamo durante il McCarthyismo. Però questo tentativo fortunatamente fallì miseramente, e nel 47 Biberman era stato arrestato e segnato come uno dei 10 di Hollywood per essere messi in galera dal governo McCarthy. E comunque dopo la sua edizione, per la sua edizione, tantissime scene del film vennero cancellate, tagliate, eccetera. E comunque la tossicodipendenza di Billie Holiday creò dei grossi problemi sul set. Si dice che al tempo Billie Holiday ormai era famosissima e guadagnava veramente migliaia di dollari a settimana dai compensi dei vari club, e la maggior parte di questi guadagni li spendeva tutti in eroina. E il suo amante del periodo, durante Joe Guy, durante la registrazione di questo film, faceva la spola tra Hollywood e Billie Holiday, rifornendola di eroina. E quando Joe Glazier prese proprio con le mani nel sacco Joe Guy prese e lo cacciò definitivamente dal set. Però questo era solo il prologo, che poi nel maggio del 1947 farà arrestare per possesso di narcotici Billie Holiday nel suo appartamento di New York. Ne uscirà dopo 10 mesi per buona condotta. Ed Fisherman, che nel frattempo aveva preso il posto di Joe Glazier come manager di Billie Holiday, stava preparando il suo grande ritorno con un concerto alla Carnegie Hall. Ma la Holiday esitava, perché non era assolutamente sicura che il pubblico l'avrebbe accettata dopo il suo arresto, e ci pensò molto prima di dare il suo ok per la preparazione di questo concerto, appunto per il suo ritorno. Concerto che poi avverrà il 27 marzo del 1948, lì alla Carnegie Hall, e addirittura ci fu il tutto esaurito per entrambe le serate. Si dice che addirittura 3.000 biglietti fossero stati venduti ancora prima che questi fossero messi in vendita. La sua popolarità era stata inaspettata, perché appunto riuscì a fare il tutto esaurito nonostante non avesse nessun disco e nessuna hit in classifica. E appunto adesso andiamoci ad ascoltare un brano di quel 1948, in questo caso di dicembre del 1948, è I Love You Porgy, un grande classico nel repertorio di Billie Holiday, che ha preso appunto dal come Summertime dall'opera Porgy and Bess di Gershwin. E questa appunto è la versione di Porgy, di I Love You Porgy di Billie Holiday, accompagnata da Bobby Tucker al piano, John Levy al basso, Denzel Best alla batteria e Minden Low alla chitarra. I Love You Porgy, Billie Holiday, Radio Wombat. Porgy, don't let him take me, don't let him handle me and drive me mad. If you can keep me, I want to stay here with you forever, and I'll be glad. I love you, Porgy. Don't let him take me. Don't let him handle me with his hot hand. If you can keep me, I wanna stay here with you forever. I've got my man. Someday I know he is coming back to call me. He's gonna handle me and so it's going to be like dying, Porgy, when he calls me. But when he comes, I know I'll have to go. Porgy, don't let him take me. Don't let him handle me and drive me mad. If you can keep me, I wanna stay here with you forever. E solo nel 1952 uscirà il suo primo album in studio, Billie Holiday Sings, semplicemente, appunto del marzo del 1952, prodotto da un'eminenza grigia del jazz del periodo, ovvero da Norman Granz. E anche sempre in quel, anzi no, l'anno dopo, nel marzo del 1953, uscirà anche il suo secondo album An Evening with Billie Holiday, anche questo su Clef Records. E adesso, appunto, da queste prime registrazioni in studio ci andremo a sentire un altro suo grandissimo classico, che è Stormy Weather, che è stato registrato, che è stato cantato per la prima volta da Ethel Waters al Cotton Club di Harlem. Poi è diventato un grandissimo classico, l'hanno ricantato un po' tutti, Frank Sinatra, Claude Huck Rogers, Però le versioni più famose poi resteranno quella di Billie Holiday e di Lena Horne. E questa Stormy Weather è un po' una cartina di tornasole di quello che stava vivendo Billie Holiday. Ho evitato in questa già lunghissima puntata di starvi a descrivere tutte le sue situazioni sentimentali, se no si potrebbe andare avanti altri milioni di anni, perché ha avuto più che altro una sfortuna gigantesca con gli uomini. E appunto questa Stormy Weather non è nient'altro che una metafora dei sentimenti della cantante. Infatti Stormy weather since my man and I are together keeps raining all the time. Cioè è brutto tempo quando io e il mio uomo non stiamo insieme, quando non stiamo insieme piove tutto il tempo. E questa Stormy Weather, registrata nel luglio del 1952, vede accompagnata Billie Holiday da John Newman alla tromba, da Paul Quinichette al sax tenore, niente po' di meno che Oscar Peterson al piano, Freddie Green alla chitarra, Ray Brown al basso e Gus Johnson alla batteria. Stormy Weather, Billie Holiday. Don't know why there's no sun up in the sky. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Life is bare, gloom and misery everywhere. Stormy weather just can't get my poor self together. I'm weary all the time, the time. So weary all the time. When he went away, the blues walked in and met me. If he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on, everything I had is gone. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Keeps raining all the time. When he went away, the blues walked in and met me. If he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on, everything I had is gone. Stormy weather since my man and I keeps raining all the time. Keeps raining all the time. E nel 1954 fece la sua prima tournée in Europa. E venne in Italia una sola volta nel 1958 a Milano, dal 3 al 9 novembre, ma in un teatro, la ospitarono in un teatro di avanspettacolo, pensate un po', e il pubblico, no, diciamo tra virgolette non abituato al jazz, non gradì lo spettacolo e la Holiday non poté nemmeno cantare tutti i brani in scaletta, e dopo il quinto pezzo fu fatta tornare in camerino. Pensate, si è fatta la solita figura da ciucci, diciamo. Però fortunatamente l'ultimo giorno, il 9 novembre, fu organizzato da un circolo di appassionati e intenditori di jazz uno spettacolo riparatore al Gerolamo di Milano, e soprattutto venne organizzato grazie al Fido Mal Waldron, era il fidato pianista di Billie Holiday. In questo caso fortunatamente il pubblico le tributò la dovuta e giusta ovazione che si meritava. Poi una serie di album proprio a suo nome, salutati entusiasticamente da Down Beat alla loro uscita nel 1954. Anzi, no, scusate, iniziò la serie di album, il primo, cioè che poi era il secondo, si chiamava Billie Holiday, salutato appunto entusiasticamente da Down Beat alla sua uscita, e poi nel 1955 seguirono Stay With Me and Music for Torching, entrambi appunto del 55. Il primo molto bello e registrato insieme all'orchestra del clarinettista di origine italiana Tony Scott, e poi nella rimasterizzazione in CD l'aggiunta di tre pezzi registrati nel 1954 con il trio di Oscar Peterson. Invece il secondo, l'altro album, Music for Torching, sarà più che altro preparatorio, perché proveniente dalla stessa session di registrazione di Los Angeles che poi conterrà il materiale del successivo Velvet Mood del 1956. In quel 1956 Billie Holiday farà uscire anche la sua famosa autobiografia, che da cui ho attinto a piene mani per questa puntata, e per accompagnare giustamente la sua autobiografia nel giugno del 1956 uscì anche l'album che si chiamava appunto come il libro Lady Sings the Blues. L'album conteneva suoi grandi grandissimi successi storici, ma anche quattro nuove canzoni, e quelle canzoni che erano suoi grandi successi, che erano poi stati reinterpretati in quell'album, contenevano Traveling Light, un suo grande classico, la stessa Strange Fruit e anche God Bless the Child. Nella recensione di questo album che fece il Billboard, ebbe insomma delle ottime recensioni sia nella stampa specializzata che non è proprio da questo album Strange Fruit e God Bless the Child verranno definitivamente assurti come classici della musica jazz. E adesso andiamoci ad ascoltare da questo album l'altro suo grande classico, Traveling Light, in questa versione appunto accompagnata dalla grande orchestra di Tony Scott, con appunto Tony Scott al clarinetto, con Charlie Shavers alla tromba, Paul Quinchet al sax tenore, Wynton Kelly al piano, Kenny Burrell alla chitarra, e Aaron Bell al basso e Lenny McBrown alla batteria. Questa è la registrazione del 6 giugno del 1956 su Clef Records. Billie Holiday, Radio Wombat. Traveling light because my man has gone. So from now on, I'm traveling light. He said goodbye. And took my heart away. So from today, I'm traveling light. No one to see. Some lucky night, he may come back again. So until then, I'm traveling light. To see, I'm free as the breeze, no one but me and my memories. Some lucky night. So until then, I'm traveling light. Dalle parole di Tony Scott riportiamo una toccante immagine della cantante. Diceva: solo due donne nella mia vita non mi hanno mai offeso, mia madre e Billie Holiday. Tutti ascoltano i dischi di Billie, tutti conoscono il suo nome. Rappresenta la vittima, La sua voce tocca chiunque, anche chi non capisce, chi non ne capisce le parole, perché il suo canto nasce direttamente dall'anima. L'anima di un essere umano molto profondo, che capisce la tristezza, la felicità, la solitudine, il successo e che fu sempre destinata ad avere un no good man al suo fianco, un buon a nulla. Billie Holiday è stata e sempre sarà un simbolo della solitudine, una vittima dell'American way of life come donna, come nera e come cantante jazz. Per la società bianca tutto questo voleva dire essere l'ultima ruota del carro. Questo insieme di shock e traumi la spinse a cercare un qualcosa che l'aiutasse ad annebbiare il dolore spirituale e mentale. Nel 1957 farà uscire due nuovi album, il primo a gennaio Songs for Distinguished Lovers, e che è un album di standard presi in ambito diciamo pop, soprattutto presi dal songbook di Gershwin. Il secondo invece è Body and Soul. Body and Soul è veramente un altro standard, come si dice, leggendario della musica jazz, proprio uno standard, tanto da aggiungere. E la Body and Soul venne scritta inizialmente per l'attrice e cantante inglese Gertrude Lawrence. E poi fu portata dall'Inghilterra all'America attraverso uno spettacolo di Broadway degli anni 30. E Louis Armstrong è stato il primo musicista jazz a registrare la sua versione di Body and Soul. E la canzone crebbe ovviamente di popolarità fino a diventare appunto uno standard. La sua versione definitiva, almeno secondo me, è quella che poi dette Coleman Hawkins nel 1939, che è considerato proprio uno dei primi prodromi del nascente movimento bebop. E appunto questa versione di Coleman Hawkins, tra le centinaia, cioè Body and Soul è uno spartiacque da cui nessun musicista jazz può aggirare. Cioè, se vuoi diventare un musicista jazz devi passare da Body and Soul. E in questo caso Billie Holiday è accompagnata dal grandissimo Ben Webster al sax tenore, da Barney Kessel alla chitarra, da Harry Edison alla tromba, da Jimmy Rolls al piano, da Red Mitchell al basso e da Larry Bunker alla batteria. Questa è la versione registrata il 7 gennaio del 1957. Billie Holiday, Body and Soul, Radio Wombat. My days have grown so lonely, for you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing. You know it's you that I am longing. Oh, I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it, it's hard to conceive it, that you throw away romance. Are you pretending? It looks like the ending. Unless I can have one more chance to prove, dear, my life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. Oh, I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul. Taking, oh, I tell you, I mean it. I want for you body and soul. Bellissima questa Body and Soul del 1957. E le canzoni presenti su Lady in Satin del giugno del 1958 derivano dalle fonti abituali alle quali la Holiday aveva attinto nei suoi precedenti tre decenni di carriera, e cioè brani tratti dal Great American Songbook e dai grandi classici del genere pop. E a differenza delle sue abituali incisioni, con l'ausilio di un gruppo jazz abbastanza ridotto, in quest'album la Holiday ritorna a impiegare ampie orchestrazioni con tanto di arpe, violini ed archi, come aveva già fatto in precedenza durante il periodo trascorso alla Decca Records. Questa volta però ispirandosi a quanto fatto da Frank Sinatra, da Ella Fitzgerald oppure da Charlie Parker nel suo Charlie Parker with Strings. L'album consiste di brani che la Holiday non aveva mai registrato in precedenza, e questi brani, arrangiati dal direttore d'orchestra Ray Ellis, furono registrati in soli tre giorni, dal 19 al 21 febbraio del 1958. Ray Ellis preparò gli arrangiamenti proprio adattandosi alla voce della Holiday. Considerate che a metà degli anni 50 la voce della Holiday era radicalmente cambiata dopo anni di abusi di alcol e di droghe. La sua texture vocale era completamente diversa rispetto ai suoi esordi, ma comunque, nonostante gli fosse cambiata il tipo di vocalità, non aveva comunque perso i suoi spigoli, i suoi acuti, e non aveva sicuramente perso la sua abilità nel fraseggio e nell'improvvisazione jazz. Ray Ellis usò per questo album un'orchestra di 40 elementi con corni, archi e tutto quello che era necessario. È stato forse l'album con il maggior dispendio di soldi per la produzione, insomma, di tutti gli album rispetto agli album precedenti di Billie Holiday. I solisti vedevano tra le figure di spicco Mel Davis alla tromba, il pioniere del trombone bebop J.J. Johnson, oltre all'ormai fidatissimo Mal Waldron al piano. Quest'album è sicuramente uno dei lavori più famosi e di successo della carriera della Holiday, e nonché sicuramente uno dei punti massimi del jazz orchestrale. E appunto da questo album ascoltiamoci il grande classico di Billie Holiday, You Don't Know What Love Is. Tonight Alive. You don't know what love is until you've learned the meaning of the blues. Until you've loved the love you've had to lose, you don't know what love is. You don't know how lips hurt until you've kissed and had to pay the cards. Until you flipped your heart and you have lost, you don't know what love is. Do you know how lost heart feels? The thought of lose their taste for kissing. You don't know how hearts burn for love that cannot live yet never dies. Until you've faced each dawn with sleepless eyes, you don't know what love is. Till you've faced each dawn with sleepless eyes, you don't know what love is. What love marzo del 1957 Billie Holiday sposerà Louis McKee, un mafioso, e come tutti gli altri uomini della sua vita, una persona assolutamente che la prevaricava e se ne approfittava assolutamente di lei. Ora, come già ripetuto, non so neanche quante volte si è sposata, non mi ricordo neanche quante volte si è sposata Billie Holiday. Non è stata sicuramente fortunata con gli uomini, come avrete potuto notare da quasi tutte le canzoni che canta. E si separarono probabilmente fortunatamente per lei circa un anno dopo. E All'inizio del 1959 a Billie Holiday viene diagnosticata la cirrosi, e anche se inizialmente aveva smesso di bere sotto consiglio del medico, come vi potrete immaginare, non riuscì a reggere più di tanto. A maggio aveva perso quasi 10 kg e sia il manager Joe Glazer, che era tornato, sia critico jazz Leonard Feather e il giornalista Alan Morrison, che erano le persone più vicine a lei, tentarono di convincerla a andare in ospedale a farsi curare, ma come vi potete immaginare, Billie Holiday continuò a fare la sua vita. E il 31 maggio del 1959 le sue condizioni peggiorarono rapidamente e fu ricoverata al Metropolitan Hospital di New York con un fegato ormai ridotto in condizioni disperate e con un cuore malato. In aggiunta a tutto questo, oltre per ribadire la sfortuna e la vita che ha fatto questa donna, oltre a essere ricoverata, essere in fin di vita, visto che l'FBI e la DEA, quella che poi si chiamerà DEA, gli stavano dietro come niente, come la ricoverarono, fu anche arrestata e piantonata in ospedale, perché tutto quello che aveva era dovuto a un abuso di narcotici, e quindi l'arrestarono anche se era in fin di vita, giusto per dire che personcine simpatiche che sono. E il 17 luglio di quel 1959, all'età di 44 anni, Eleanora Fagan, detta Billie Holiday, lascia questa valle di lacrime, e come lei, solo pochi mesi prima anche il suo grande amico Lester Young era venuto a mancare, e pensate, addirittura rifiutarono alla Holiday di cantare al suo funerale. Però è veramente, nonostante una vita molto triste e molto sofferta, veramente una dell'icone, una dei giganti assoluti della storia del jazz e del canto tutto, proprio una figura imprescindibile, come spero di avervi fatto capire, almeno lo spero. E quindi ormai siamo arrivati, dopo questa lunga puntata, siamo arrivati al momento dei saluti, prima di lasciarvi come di consueto al concerto che ho scelto per voi di Billie Holiday. E non mi resta che rinnovare l'appuntamento tra due settimane con Tonight Alive, e oltretutto vi voglio ricordare anche domani, mi raccomando, domenica, come tutte le domeniche alle 18, rilassatevi nella vostra domenica e riprendetevi dalle fatiche del weekend con La Fuga del Gatto, il programma di musica classica di Radio Wombat, con Bloody Mary e la Virgi che alleteranno la nostra domenica pomeriggio al suono della musica classica. E ora non mi resta altro che salutarvi e farvi sentire Billie Holiday alla Carnegie Hall, ormai ve l'ho nominata così tante volte, ora ve la faccio anche sentire. Concerto alla Carnegie Hall, che ricordo è del 28, è la seconda serata, 28 marzo 1956, Billie Holiday al suo massimo della forma. Vi ricordo che lo sentirete solo per la diretta, non è disponibile in podcast, quindi non vi perdete anche la replica di giovedì sera alle ore 23 per sentirvi anche tutto il concerto. Un buon fine settimana qui dal vostro Daila Edama, un abbraccione e a risentirci qui sulle frequenze di Radio Wombat. Un bacione a tutti e a tutte! Radio Wombat. Wombat. Radio Wombat. Wombat.